Allora, torniamo ai microfoni per questa seconda parte della mattinata di oggi. Abbiamo al telefono una compagna che vive a Istanbul. Pronto? Pronto? Ah, ciao, buongiorno. Buongiorno. Senti, allora, entriamo subito nel vivo. Dicevamo stamattina in rassegna stampa che ormai le notizie sulla Turchia sono ridotte a piccoli trafiletti con l'eccezione del manifesto, del quotidiano Il Manifesto. E però abbiamo saputo comunque nei giorni scorsi che ci sono state molte manifestazioni, non solo nella località dove si trova la miniera teatro del disastro. Quindi vorremmo innanzitutto chiedere a te notizie su questo. Allora sì, dal giorno del disastro ad oggi sono in corso tutti i giorni manifestazioni, soprattutto nelle città di Istanbul, di Smirne, che appunto, oltre a essere la terza città più importante del paese, è la città più vicina e nota alla località del disastro. E nella località del disastro a Istanbul le manifestazioni sono andate in corso anche tutta la notte. Addirittura ci sono foto di poliziotti che hanno cercato di fermare un bambino di 10 anni che protestava, e non solo, in realtà la notizia più importante di ieri è che sono iniziate le occupazioni all'università, la prima università a essere stata occupata è quella appunto di Istanbul Technical University, cioè l'università appunto dove ci sono tutte le facoltà di ingegneria e soprattutto la facoltà di ingegneria mineraria. Un centinaio di studenti hanno iniziato l'occupazione, che è durata tutta la notte. Hanno emesso un documento in cui spiegano le ragioni dell'occupazione e anche gli scopi di questa occupazione, che sono appunto le dimissioni dei due proprietari della compagnia che gestisce la miniera e che fanno parte però all'interno dell'università della commissione consultiva della facoltà di ingegneria mineraria. Personaggi che sono stati licenziati oggi, è la notizia di questa mattina. Un'altra delle richieste degli studenti è la dimissione di un professore universitario, anche lui ingegnere minerario, il quale fa parte della commissione che valuta le responsabilità appunto delle autorità e della compagnia nel disastro, il quale se ne è uscito fuori con un'affermazione giudicata appunto scandalosa, nella quale appunto afferma che la morte per inalazione di monossido di carbonio è una morte dolce, così dolce che appunto viene utilizzato per i suicidi. È un commento totalmente veramente agghiacciante, direi. Agghiacciante, tanto che appunto nella sua stanza, nel suo ufficio all'università, che è davanti al quale sono state fatte delle barricate, ci sono slogan che lo additano come un assassino. Tutto il paese insiste su questo punto, non si tratta di un incidente, come le autorità competenti, come anche lo stesso primo ministro ha detto più volte, un incidente come tanti che possono succedere nella storia, ma si tratta di un vero e proprio omicidio, tanto che ci sono prove dei vari allarmi che erano stati emessi, che erano sempre stati ignorati, e delle perizie sempre molto superficiali, e addirittura il partito principale di opposizione 2 settimane fa aveva chiesto chiesto immediatamente, cioè che fosse fatta nel più breve tempo possibile un'indagine della miniera, in quanto appunto le verifiche e i controlli di sicurezza negli ultimi anni erano stati troppo pochi, e anche questa richiesta era stata totalmente ignorata. Poi c'è stato il disastro. Queste università hanno fatto seguito anche altre università, sono state occupate anche la Boasici, che invece è una università di facoltà umanistiche, l'università di Galatasaray, e il sostegno alle vittime, e la rabbia coinvolge un po' tutti, persino le principali squadre di calcio. Il Beşiktaş e il Fenerbahçe hanno annunciato che faranno una partita di calcio per raccogliere fondi a sostegno dei familiari delle vittime, e gli studenti delle scuole si stanno organizzando. Il paese è veramente in lutto, questi 3 giorni di lutto nazionale. Poi in realtà Erdogan come pubblica azione ha deciso di dichiarare questi 3 giorni di lutto nazionale, ma in realtà non si concretizza in nulla. Il cordoglio della gente, la rabbia è l'unica vera espressione è uno scandalo quello che è successo qui. E oggi, tra l'altro, alle 2 ci sarà un forum, vi ricordate, durante l'esperienza di Chiesi nacquero queste occasioni di dibattito che sono andate avanti per mesi nei vari parchi e parchetti della città, e ora sembra appunto che questa stia diventando una forma di non solo di protesta, ma di raccolta di gente che si organizza in questa maniera. Per ora ancora molto è tutto all'inizio, queste cose non sono mai avvenute, tranne che 30 anni fa. Appunto, la Turchia sta vivendo un periodo di grande trasformazione, e soprattutto la coscienza della gente si sta svegliando adesso, si stanno organizzando. L'università, appunto, questa prima che è stata occupata, ha organizzato un forum alle 14 al quale sono stati invitati tutti i cittadini della città interessati chiaramente a organizzare forme di protesta. Senti, ci sono state molte manifestazioni, no? Ci confermavi anche tu, e con una repressione abbastanza forte. Sì, hai per caso notizie di arresti, di fermi, di feriti? Sì, ci sono stati feriti, ci sono non per ora gravissimi. Si parla appunto a Istanbul di un giornalista e di 4 attivisti, perché la polizia interviene, appunto, sapete, con i toma, con l'acqua a pressione, con queste pallottole di plastica. Per fortuna fino ad oggi, in questi 3 giorni di protesta, non ci sono stati feriti gravi. Il 1° maggio ci sono state manifestazioni, un ragazzo del liceo ha perso un occhio. Insomma, qua la gente ha più paura di prima di uscire in strada, perché obiettivamente la ferocia della repressione della polizia non ha confini, non ha limiti, e quello che è successo appunto durante il periodo di Chiesi non scoraggia l'uso della repressione in maniera violenta. Speriamo, vediamo che cosa succederà, perché questo weekend probabilmente, visto che sono giorni di vacanza, la gente uscirà per le strade. Fra l'altro, lunedì è anche festa nazionale, è la festa appunto della gioventù e dello sport, una festa voluta dal fondatore della Repubblica, Atatürk, e anche in quell'occasione si temono scontri. Istiklal, la strada principale pedonale che parte da Taksim stessa, il parco di Gezi, sono sempre presidiati in queste occasioni, non solo in questa particolare di questi giorni. Ieri il monumento della Repubblica era circondato da transenne, cioè è impossibile avvicinarsi, anche se non è in corso nessuna manifestazione. Il parco viene perennemente chiuso, il parco ormai, anche se c'è stata questa delibera, la notizia è arrivata anche in Italia, favorevole, sì, sì, del tribunale alle favorevole all'annullamento del progetto di distruzione del parco e di pedonalizzazione di Taksim, della piazza. Nonostante tutto ciò, il parco in realtà non è un luogo libero, viene chiuso come se fosse appunto di proprietà privata ogni volta che si avverte aria di scontri, che poi in realtà vengono solo per l'intervento violento della polizia, perché la gente fila pacificamente con i suoi slogan e al massimo appunto quello che succede è qualche insulto a qualche poliziotto che risponde sempre nella stessa identica maniera. Sì, probabilmente. Cioè, penso che sia proprio per i contenuti di queste manifestazioni, che sono, da quello che abbiamo capito, chiaramente antigovernative, contro tutta la politica anche economica del governo di Erdogan, che ha portato, cioè, che ha portato anche a questa tragedia, diciamo, cioè la deregolarizzazione, lo sfruttamento intensivo e così via, insomma. Poi ne parleremo nella seconda parte della trasmissione. Senti, ti volevo chiedere, abbiamo saputo dai giornali, insomma, degli interventi di Erdogan, soprattutto quando è andato a Soma e come si è comportato davanti insomma alle sacrosante proteste dei familiari dei morti e non solo. E che reazione c'è stata in Turchia al pestaggio, per esempio, delle persone che l'hanno circondato, diciamo così. Come? Dicevo, che reazione c'è stata in Turchia rispetto al comportamento anche della sicurezza intorno a lui? Sdegno, questa cosa chiaramente ha stretto ancora di più ai familiari delle vittime la rabbia dei turchi. Gli stessi quotidiani si sono scatenati non solo appunto alla ricerca di nuove immagini che inchiodano e accusano Erdogan, il quale a quanto pare addirittura, riferisce un quotidiano dell'opposizione, se ne è uscito fuori con insulti antisemiti a un manifestante poi picchiato da un suo consigliere, ma si sono anche scatenati attraverso vignette, cioè questa figura appunto del primo ministro che ferra un pugno, non si capisce poi ancora bene se è una donna, se è un uomo, non è chiaro, le immagini chiaramente in questi casi sono molto confuse, è una cosa così scandalosa, per cui appunto viene raffigurato tramite vignette, tramite fotomontaggi, come un pugile che si prepara, la moglie di Erdogan insomma ha sempre suscitato molto scandalo, perché è la prima, almeno così viene detto a quanto pare, poi invece moltissimi anni fa non era neanche vero, comunque la prima first lady a uscire fuori con il capo scoperto, comunque diciamo lo fa in una maniera che per i turchi è inammissibile, dato appunto le istanze di laicità di questo paese. E alcune vignette appunto ritraggono lei e prendono in giro il primo ministro, dicendo che lei è stupida proprio perché lui per anni si è allenato prendendola a pugni in testa, ecco. Diciamo, quindi la satira qui in Turchia è molto molto forte, per fortuna la censura non arriva al punto da impedirla totalmente, anche se come sapete è molto difficile la vita di un giornalista in Turchia, bisogna stare molto attenti al paese con il più alto numero di giornalisti in carcere, attualmente sono circa 70, e poi recentemente sono stati e sono tuttora chiusi e censurati YouTube e Twitter, anche se da Twitter il blocco di Twitter è finito, quello di YouTube no. Quindi diciamo che la reazione generale è stata quella di una rabbia che aumenta sempre di più, perché veramente sembra che questo governo non abbia alcun disegno, alcuna morale, quello che viene spesso scandito durante le manifestazioni, che questa gente è senza onore, non nel senso militare ma nel senso di dignità, e senza pietà. Quindi, sì, diciamo, perché diciamo che anche oltre al fatto appunto dell'opposizione alle politiche economiche, c'è stato anche il coinvolgimento in scandali abbastanza di recente, no? Da parte proprio del primo ministro e del suo entourage. Sì. Senti, l'ultima cosa, purtroppo... ti volevo. Dimmi. No, che poi purtroppo la situazione è anche molto complessa, per cui le elezioni, come sapete, amministrative del 31 marzo sono state vinte anche con un po' meglio delle precedenti, per cui nessuno credeva che gli eventi di ieri avrebbero influito sull'andamento elettorale, però molti speravano che almeno i recenti scandali lo facessero. La situazione però è anche questa, che in questo paese il governo ha un forte potere censorio nei confronti dei media e in molta gente, cioè più di metà del paese, segue le notizie nei giornali, negli organi di governo, e quindi alla fine il ragionamento da una parte viene in qualche modo convinta della bontà dell'operato di questo governo, in maniera, diciamo, appunto attraverso la manipolazione dei media mainstream. Dall'altra è anche vero che questo governo da una parte ruba e dall'altra fa. Questa è la percezione generale di chi poi lo votava prima e ha continuato a votarlo nonostante gli scandali. L'economia di questo paese comunque, almeno da un punto di vista macroscopico, sembra andare meglio, sostanzialmente il bacino elettorale di questo governo e dell'opposizione sono rimasti quelli che erano prima, per cui diciamo è molto, molto difficile in questo momento pensare a un cambio di governo, immaginarlo, ecco, perché anche perché del sostegno di molti, anche perché poi i risultati elettorali spesso non sono una fotografia di quello che veramente si muove in un paese, come sempre. Senti, un'ultimissima cosa, mi dicevi prima che non sono indette manifestazioni, ma che probabilmente ci saranno in forma spontanea proprio in questi 3 giorni di vacanza, diciamo. Per ora l'Italia, appunto, è questo forum che si terrà oggi. E i centri, diciamo, delle manifestazioni sono, come sapete, la piazza Taksim e il quartiere di Kadıköy. E la gente in realtà cosa sta facendo in questi giorni? Le manifestazioni iniziano in questa maniera: la gente si siede per terra e quasi tutti sono dotati di un elmetto, dove c'è l'hashtag Soma, e stanno per terra, appunto, così, in segno di protesta. L'hanno fatto a Soma, l'hanno fatto a Izmir, lo fanno qui, e poi a un certo punto la polizia interviene all'improvviso, per cui diciamo non c'è bisogno di nessuna chiamata alle armi. Quello che la polizia ormai presidia permanentemente la via pedonale di Istanbul, il quartiere di Kadıköy, asiatico, e in attesa, appunto, che succeda qualche cosa oppure di farlo. D'accordo, io ti ringrazio, e comunque i microfoni della radio sono aperti e ci sentiremo sicuramente, certo, se ci saranno altre notizie da dare, seguendo un po' lo sviluppo della situazione. Mi sembra comunque che il quadro sia di una mobilitazione grossa che non ha intenzione di concludersi. Poi ci saranno i funerali probabilmente di queste vittime. Sì, quindi... alcuni sono già iniziati, sì. Sì, oggi il bilancio ultimo delle vittime è 299. Sì, quindi supererà sicuramente i 300, come anche il governo, almeno apprendo dai giornali italiani, è stato costretto a dichiarare. D'accordo, allora ti ringrazio ancora una volta e grazie a risentirci. A ciao, ciao, ciao. Ciao, grazie a voi.